Salve, buonasera, sono Daniel Fribe del Cycling Podcast e purtroppo sono qua per annunciarvi che i ragazzi di Bidon stanno per infliggervi un'altra oretta nella loro sciagurata compagnia, soprattutto mi sto riferendo soprattutto a Pellacci. Met Berenberg, lead-out van Bert van Lerbergen. En nu komt Merlier eruit. Merlier versus Milan. Merlier helemaal naar links. En dan Merlier nog altijd aan de leiding. Maar Milan is de bedreiging. Milan of Merlier? Milan of Merlier? Milan of Merlier? Het is Milan! Amiche, amici, studenti e studentesse del Giro d'Italia, benvenuti a una nuova puntata di Gironimo, il podcast di Al Vento dedicato al Giro d'Italia 2024 con la docenza di Shimano Italia. Vi trasmettiamo questa puntata niente po' di meno che dalla classe 3D della succursale Asterope della scuola media F. Masci di Francavilla al Mare. È in 3D, è in tre dimensioni? È in tre dimensioni. Io pagherei, purtroppo non ce lo siamo preparato, ma pagherei per avere un acrostico di Leonardo Piccione sulla succursale Asterope. Non lo farò oggi. Ringrazio Daniel Fribe che ha introdotto la nostra puntata. Dopo la sigla invece avete sentito un audio rubato al nostro maestro, due maestri, siamo a scuola, abbiamo introdotto la puntata con due maestri, l'altro nostro grande maestro Renato Scotte che tutti i giorni commenta la tappa del Giro d'Italia per gli highlights che vanno in onda su Sporza. Abbiamo parlato di amiche e di amici, di studentesse e di studenti, non di fratelli. Ieri abbiamo parlato un sacco di fratelli e io mi sono dimenticato di farlo, per cui lo faccio oggi, salutare mio fratello Nicolò che quest'oggi attraversa l'Afghanistan per fare cose ben più interessanti, più importanti soprattutto di un podcast dedicato al Giro d'Italia. La voce di Marta Bacigalupo l'avete già sentita, la voce davanti a me invece è quella di Michele Florindo Callisto Adriano Gertruido Vollering Pelacci. No, magari, però io ho scoperto, Filippo, che con la signorina Demi Vollering abbiamo molte cose in comune. Questo è un nome lunghissimo. Entrambi andiamo in bici. Sì, entrambi poi abbiamo appena firmato un contratto multimilionario. Lei con Nike, io con Gironimo. No, ma quindi qual è il suo nome della Vollering? Adriana Gertruida. Ah, ok, bello. Incredibile, sì, bella questa sfida. Ciao a tutti, io sono Leonardo Piccione, mi autopresento oggi e mi autolancio anche l'acrostico della tappa di oggi. Siamo a Francavilla al Mare, oggi era una sfida non indifferente mettere insieme l'acrostico, ma ci ho provato ed è questo qui: fuggitivi, rinunciate alla notorietà, conviene ai velocisti il luminoso lungomare abruzzese, appalesando lucidità Milan astutamente rimonta Erculeo. Appalesare è un verbo? È un verbo, esiste, è una forma arcaica di palesare, ma si può utilizzare. Ma sono curioso adesso, Michele, di sentire tu che verbi e che sostantivi userai nelle tue sillabe d'amore che corrispondono alla sintesi di questa tappa numero 11 che è arrivata a Francavilla al Mare con la seconda vittoria in questo giro di Johnny Milan. Prego. Appaleso il mio riassunto di tappa, iniziando subito con uno scioglilingua. Va segnato che da Fogliano Valfortore non è partito Kian Uijdebroeks. L'ho detta senza impappinarmi. Nella prima parte di tappa, mossa sulle colline molisane, si avvantaggiano un campione, cioè Thomas Champion, e metà squadra della Visma Lease Bike, cioè Affini e Van Dijk. L'andatura è talmente lenta che Simone Velasco può smettere di pedalare e mimare Superman sulla bici per qualche chilometro. Me lo pesco, anzi. Non l'hai visto? No, non l'ho visto. Le squadre che si incaricano di tirare il gruppo sono la Lidl Trek, Jayco e Sudal Quickstep. E arrivati sul lungomare, il gap è già inferiore al minuto. Una volta ripresi, sul lungomare la bonaccia è interrotta solo da una folata di Andrea Piccolo. Sotto la Flamme Rouge, i due treni messi meglio sembrano quelli della Jayco e della Alpecin. Ma l'ultimo uomo decisivo è Bert van Lerberg della Quickstep per Merlier. Il non mago, bensì razzo di Wortegem ha però sulla ruota Jonathan Milan, che lo svernicia. Cicla Milan vince di nuovo e mette in ghiaccio la maglia a punti. Eh sì, vince di nuovo, terza vittoria al giro in due anni, terza vittoria in una località di mare, proprio di fronte al mare per Jonathan Milan, che ci ha detto che lui al mare ci andava da piccolo, andava a Grado e a Lignano, Sabbiadoro essendo friulano. Ma la grande domanda, e lo chiedo a te perché chi più di te, se Milan avesse il mare... Se Milan avesse il, mare vincerebbe sempre, probabilmente vincerebbe sempre. Ma leggiamo l'ordine d'arrivo, che è più interessante. Ha vinto Jonathan Milan su Caden Groves e terzo Giovanni Leonardi, perché è stato declassato Tim Merlier. Quarto PT della Groupama, quinto Molano, sesto Van Poppel, settimo Gaviria, ottavo Bauhaus, nono Agnolkowski e decimo Enrico Zanoncello della Bardiani, che ritroveremo più avanti in questa puntata. La classifica generale è immutata, quindi i distacchi non ve li sto a leggere. Tutti dalla quinta posizione in poi guadagnano un posto, perché non è più in classifica generale. Ve l'ha detto, ce l'ha detto Michele nel riassunto di tappa, non è partito stamattina Kian Oedebroeks della Visma. Quindi in maglia rosa c'è Tadej Pogacar, sul podio momentaneo Dani Martinez e Geraint Thomas, a seguire Ben O'Connor, Antonio Tiberi, Romain Bardet, Lorenzo Fortunato, Filippo Zana, Einer Rubio, e in top 10 entra quest'oggi Tymen Arensman della Ineos. Ma entriamo nel vivo del racconto, dell'analisi della tappa di oggi, come siamo soliti fare con Marta Bagicalupo, che estrae il suo tarocco nella sua giromanzia e ci introduce un tema, un personaggio, non lo so, oggi non so nulla di quella che sarà la carta della tua giromanzia. Qual è? Oggi non c'è nulla di appropriato dell'arcano maggiore del sole, una delle carte più positive assolutamente del mazzo intero. Ha un personaggio principale circondato dalla luce e significa appunto chiarezza, realizzazione. E ragazzi, chi potrebbe essere se non uno che è bello come il sole, sereno, luminoso, vincente? Ovviamente è il nostro Johnny Milan. Questa carta ha tra i suoi significati quella proprio della crescita personale, della realizzazione, e lui ce ne ha parlato anche, sentiremo appunto in conferenza stampa. È anche una carta che richiama i messaggi della pace, della serenità, ed è così sinceramente che l'abbiamo visto, sereno, appagato, ispirato. Potentissimo, perché come ci hanno raccontato sia nel riassunto di tappa che nelle considerazioni, ha questo lancio così potente che, come la carta, permette di superare gli ostacoli. Però dobbiamo ricordare che gli arcani maggiori hanno anche sempre un rovescio della carta, non solo della medaglia. Il rovescio in questo caso è la parte più negativa di questa carta, e oggi non è stata una partenza semplicissima. Ci sono diversi caduti per malattia, quindi non solo Kian si è ritirato, e ci sono anche un po' di difficoltà appunto del gruppo, che su e giù sta affrontando questi problemi di salute. I più forti o chi non è stato bene all'inizio inizia a uscirne, e poi anche un po' di gran cadute nel tratto finale, tra cui il povero Jakobsen, Lund e non solo. Sì, così è andata così, quindi chiari e scuri, ma noi parliamo... Però, giromanzia perfetta quest'oggi, devo dire che i tarocchi spesso hanno ragione, estrazione che sembrava fatta apposta quasi. Ma sì, sappiamo che invece non è fatto apposta. No, non è mai fatto apposta, ma parliamo del sole, quindi di Jonathan Milan. Oggi, come dicevo nell'acrostico, ha palesato lucidità, perché oggi c'è stato un po' di caos. Nel finale il treno della Lidl non l'ha lasciato a pochi metri dall'arrivo, Edward Theuns l'ha lasciato sulla ruota di Merlier, e da lì in poi Milan ha dovuto in un certo senso fare da solo. È stato molto più lucido di altre volte, di come l'abbiamo visto in altre volate. Ha preso la ruota giusta, mancava Olav Koy, che è un elemento ovviamente importante nella volata di oggi, però Milan oggi davvero perfetto dal punto di vista della scelta. Sì, volata molto incasinata, hai detto bene, e in cui i treni non è che non ci sono stati. Ci sono stati, ma hanno influito meno di quanto influiscono di solito. È vero che il treno è sempre il treno, come ci insegnano i grandi saggi, ma oggi innanzitutto è una volata che è iniziata con la Ineos davanti, che già questo è abbastanza un'anomalia, no? Fino ai meno due c'era la Ineos a menare, anche oltre. Poi si sono un po' aperte e la squadra protagonista del lancio della volata è stata la Jayco di Caleb Ewan, che ha fatto un lavoro perfetto senza finalizzarlo in alcun modo. Si è persa la Lidl, si è persa, ma è stato bravissimo Milan, perché prima ha preso la ruota della Jaico, poi è rimasto intruppato, e quando c'è stato questo momento di spallate con, credo fosse con Sonny in quel momento, ma forse era Teuns, non ne sono certo, che si sono messi a fare spallate per far largo a Milan, Milan ha anche smesso un attimo di pedalare e poi ha scelto coscientemente non di seguire il suo compagno, ma di seguire Tim Merlier. Quindi ha anche un po' sceso dal suo treno per salire su un altro treno, per salire alla ruota del corridore che probabilmente aveva battezzato in quel momento, anche se poi si va molto distinto. In quel momento si sono abbastanza spallati Milan e Lonardi, ed è stato un momento abbastanza interessante perché tra Milan e Lonardi, sono andato a vedere su Wikipedia, ci sono 14 centimetri e 14 kg di differenza. Questo fa capire abbastanza facilmente chi dei due ha vinto la battaglia a spallate. C'è praticamente un Valentin Paré-Peintre di differenza. Quasi, quasi. Dopodiché la volata, insomma, l'avete vista, una volata anche discussa, in cui è intervenuta anche la giuria, c'è stato questo grande sbandamento verso destra, e in realtà la volata l'ha lanciata Molano, che è stato poi forse quello un po' più danneggiato, ma che si è anche un po' danneggiato da solo. Merlier ha fatto una cosa che io non ho ben capito, perché quando ha lanciato la volata, dopo una trentina di metri, si è girato alle spalle, che nel pieno dello sforzo non si capisce che scopo avesse. L'unica idea che mi sono venuto è che in quel momento, scusate il termine tecnico, Molano abbia mandato a fanculo Merlier e lui dalle urla si sia girato indietro. Ma detto che Merlier, secondo me, sì, cioè, la deviazione l'ha fatta, per cui la squalifica ci poteva stare. Era una deviazione, insomma, abbastanza ordinaria, e se proprio si va a rivedere la volata, si parla molto del corridore dell'Archea, che non ho visto chi fosse, che si è dovuto rialzare. Quello che l'ha chiuso male è stato in realtà Piti della FDJ, molto più di... insomma, che l'ho proprio chiuso alle transenne. Ultima cosa che... Scusa, no. Questo un po' mi addolora, perché io ero pronta ad esultare, dicevo, e dai, lo sentite il treno, che è sempre il treno, è tutto perfetto, vedi? Proprio puntuale. Comunque, insomma, io ero gasatissima che Piti finalmente, lentamente, sulla lunga distanza, stamattina Filippo mi ha rassicurato, ha detto, vedrai la terza settimana. E insomma, però, vabbè, no, bene, ma non benissimo. Ultimissima cosa per compiacere Pelacci, che non so perché è felice quando io analizzo le volate, vi invito a riguardarvi lo sprint di Lonardi, rivelazione possiamo dirlo di questa volata, non ce l'aspettavamo così in alto, che non ha avuto le gambe proprio per stare, cioè quando Milan è partito Lonardi non aveva le gambe per stargli dietro, in più si è fatto portare anche lui in transenna, si è trovato tappato, a un certo punto si è anche rialzato, trovato tappato tra Molano e Groves, però quando Molano si è quasi fermato per fare il suo comizio alzando il braccio e lamentandosi vistosamente, Lonardi invece ci ha creduto e con quello ha saltato Molano, è rientrato sui primi e si è guadagnato un podio che forse il buon Molano poteva prenderci se avesse fatto meno sceneggiata, e invece il buon Lonardi dimostra che crederci fino all'ultimo aiuta. Dopo la linea del traguardo ho fermato, anzi lui era già fermo, mi sono avvicinato a Edward Teuns, uno dei protagonisti del treno di Milan. L'ho visto molto allegro perché c'era la sua famiglia, c'era la sua compagna e suo figlio, e gli ho chiesto un po' di questo arrivo di oggi a Francavilla al Mare. Edward, super quick, double joy today, the win with Johnny and your family here waiting for you. Yeah, I was looking forward to my family coming, and I was hoping that they could see Johnny win today, and for us it was a perfect day. I think the team did a really good job all day again, and we lost each other a bit inside the last kilometer, but I saw Johnny came up next to me in the wheel of Merlier. So yeah, I could not do a lot there, and he was on a good wheel and he could launch on a good moment, so yeah, we are happy. How do you communicate in such a chaotic situation? Yeah, we try to communicate, but it's very hard. Sometimes we try to use the radio, but then you have to take your hand off the bar, so it's not that easy. It's a lot of screaming and trying to look back where they are and trust each other to follow the wheel. It's very hard to communicate, but we do our best. Last thing, I saw Simone and Juanpe also stopping here. It seems you really are a good team. You have good relation apart from your job. Yeah, it's we have a super nice group here. We're having a lot of fun, and the team is riding really well. We're riding well together, and we have a very strong leader. So yeah, so far so good. We leave you to your family. What's his name? Scott. Scott. Thank you. Ciao. Thanks. Dunque, Edward, doppia gioia oggi, la vittoria di Johnny e poi la tua famiglia ad attenderti al traguardo. Sì, ha risposto lui, non vedevo l'ora che la mia famiglia arrivasse al giro e speravo che vedessero Johnny vincere. Per noi è stata una giornata perfetta, la squadra ha fatto un ottimo lavoro tutto il giorno, ancora una volta ci siamo un po' persi nell'ultimo chilometro, poi però ho visto Johnny accanto a me mettersi a ruota di Merlier e a quel punto non potevo fare molto altro io, lui era nel posto giusto. E sì, insomma, siamo felici. Gli ho chiesto come fate a comunicare in situazioni caotiche come quelle di oggi, come quella di oggi, e lui ha risposto: noi ci proviamo a comunicare, ma è molto difficile. A volte usiamo la radiolina, ma per fare questo devi togliere la mano dal manubrio, perciò non è facile. Si urla molto, si cerca di guardare indietro dove siano gli altri, ma la cosa fondamentale è, come spesso ci dicono i protagonisti delle volate, fidarsi l'uno dell'altro. L'ultima cosa che gli ho chiesto, ho visto Simone Consoni e Juanpe Lopez fermarsi, come mi ero fermato io, mentre Teun salutava la sua famiglia, e avvicinarsi, insomma, fare i complimenti a tutta la famiglia. Ho detto, sembra che siate proprio una bella squadra al di là del lavoro che condividete. E Teuns ha risposto: sì, è un gruppo super, il nostro, ci divertiamo, stiamo correndo bene, abbiamo un leader molto forte, quindi finora tutto bene. E io ho detto: va bene, ti lascio adesso alla tua famiglia, come si chiama il bimbo? E lui ha risposto: Scott, si chiama Scott Teuns. E ci siamo salutati, insomma. Scott Teuns? Eh sì, così. Scelta bizzarra. Perché anche una bici da Scott, non so, chiameresti tuo figlio Filippo? Io non pensavo alla bici. Chiameresti tuo figlio Specialized Couch? Non chiamerei mio figlio con una consonante che è la stessa consonante con cui inizia il cognome, cioè diventa un po', vabbè, niente, diventa una parola unica, Scotteuns, potrebbe essere, magari ha fatto apposta per farla diventare una parola unica. Grande amore, grande affetto, grande gratitudine interna alla Lidl. Mi è piaciuta molto la definizione che ha usato Jonathan Milan quando ha detto: la mia vittoria, la mia volata è la punta dell'iceberg, perché rappresenta tutto il lavoro fatto da lui, ma tutto il lavoro fatto dalla squadra, e è una delle tante espressioni, insomma, interessanti che ha tirato fuori Milan. Gli sta crescendo come corridore, sta crescendo anche nella dialettica, devo dire. È diventato saggio questo Re Sole? È diventato saggio, è diventato più loquace del passato, rilassato ovviamente come sempre si è dopo una vittoria. Purtroppo non c'è stato modo di fargli la seconda domanda che mi ero preparato per lui dopo quella del mare da bambino, dove andava il mare da bambino, ed era una domanda a sfondo faunistico, perché Jonathan Milan, come forse sapete, ha come soprannome il toro di buia. Michele, confermi? Confermo. Però non so se sapete che il suo nome di battesimo, Jonathan, deriva da un libro, un romanzo che sua madre stava leggendo durante la gravidanza, che è Il gabbiano Jonathan Livingstone. E quindi a questo punto viene da chiedersi se lui si ritenga più un gabbiano o un toro. È una domanda di un certo livello che purtroppo non c'è stato modo di fare oggi, ma credo che avremo occasione prossimamente in questo giro. Di certo è consapevole di essere grosso, perché, a parte che è evidente, dice... Nel finale l'aerodinamica è importante per uno grosso come me, per cui quando è negli ultimi chilometri lui è focalizzato su tante cose molto tecniche, il rapporto giusto da avere, tenere la ruota giusta, stare a ruota, quindi no, protetti dal vento, però anche simpatico, dicevate come sta crescendo come personaggio, come persona, lo citava anche lui. Ha fatto una battuta simpatica quando gli hanno chiesto: ma ti pesa a te, a differenza di Pogacar, venire in conferenza stampa, stare qua tanto tempo, Lui ha detto, no, ha fatto lo scherzo, ha fatto finta di dire sì, non ne posso più, ha fatto finta di andarsene, e poi ha riso, ha fatto ridere anche noi. Insomma, io sono contento quando vince un corridore così, che comunque, nonostante dimostri tutti quei watt, esultanza bellissima, no, con i muscoli in vista, eccetera, in conferenza stampa tira puntata la testa bassa. Puntata hot, un vero gladiatore, d'altronde ieri nelle foto nell'anfiteatro di Pompei l'abbiamo visto, insomma. Esatto, anche la sua squadra ha proprio twittato così. Però quando gli fanno domande spesso guarda per terra ancora, quindi è ancora un ragazzone timido, e a me questa cosa piace, insomma, è un grande vincitore di tappa oggi. Finale con volata veloce, potente, che un po' aspettavamo, ma la giornata era iniziata subito diversamente, no? Sì, sì, era iniziata con tre fuggitivi che abbiamo già menzionato nel riassunto di tappa, due dei tre li abbiamo incontrati all'arrivo, ve li facciamo sentire uno dietro l'altro, sono Edoardo Affini e Thomas Champion. Affini che tra l'altro prima di, insomma, di iniziare questa chiacchierata mi ha detto molto tranquillamente che anche lui in questi giorni è stato un po' incasinato coi bronchi. Ha usato questo termine, però, che quindi dopo questa giornata ha capito che le gambe girano, insomma, sentiamolo. Edoardo Affini, una bella giornata davanti a Mulinare, anche un modo per dimenticarsi il risveglio di questa mattina. Sì, dai, ci abbiamo provato. Giornata è partita un po' da schifo, dai, diciamo, sostanzialmente. Abbiamo perso il nostro uomo di classifica, abbiamo cercato di tenere un po' il morale alto, dai, ci abbiamo provato. Era un modo per reagire però il vostro o era un'azione già pensata a prescindere? Ma un po' tutte e due direi, sì. La voglia di reagire sì, e poi come ho detto magari è una tappa ovviamente disegnata per i velocisti, ovvio, però... abbiamo visto magari in tappe anche precedenti che le squadre, le varie squadre magari cercavano un po' di farsi la lotta, come si può dire, di darsi fastidio a vicenda, e speravamo un po' che ci fosse ancora di questo casino in modo magari da guadagnare un po' di tempo in più, ma non ci hanno mai lasciato tanto spazio, e come ho detto prima, da quello che ho capito, hanno anche collaborato molto bene per inseguire, quindi è andata così, però insomma dai, ci abbiamo provato. Grande, grazie mille. Prego. È buon po' di lavoro, eh? C'è giusto il mal aux jambes. Ok. Non è che arrivasse da qua. Ti sei con Thomas? Oui. In français? En français, ouais. C'est bon? On peut essayer. Mon français, c'est terrible, mais... Tu comprends? Je comprends, oui. Ça va. Je sais pas si tu veux essayer en italien. Ah, je connais pas l'italien. Ben, tu as connu beaucoup d'Italie aujourd'hui, parce que une journée... À l'avant. Oui, j'ai connu 200 km d'Italie avec les beaux paysages, ouais, c'était cool. Une belle journée à l'avant. Un peu comme l'année dernière où j'avais remporté la Fuga, c'était le même style, mais avec les deux Jumbo, je pensais que ça pouvait aller plus loin. Mais derrière, ils y étaient 4 ou 5 équipes à contrôler et il n'y avait rien à faire. Après, c'était pas l'étape qui me convenait le mieux, je suis quand même plus à l'aise en montagne. C'était pas l'étape pour toi, mais tu l'as fait quand même. Parce que je pensais qu'on allait être plus dans l'échappée. Et pourquoi pas aller jusqu'au bout, c'était le but de la journée. Voilà, merci beaucoup, bonjour. Merci. Or dunque, con Champion si inizia con il mio abituale siparietto in francese, perché sto cercando di rubare il posto a Marta in questo podcast come specialista del francese. Non lo so, portati anche una cornucopia da solo, così sono definitivamente licenziata. Ma le focacce, sai che diventa difficile trovarle. Comunque, Champion mi chiede lui se possiamo farla in francese, se lo capisco gli dico di sì, ma se preferisce la facciamo in italiano, e lui dice non conosco l'italiano, e al che io controbatto dicendogli che però oggi ha conosciuto molta Italia facendosi la giornata davanti in Fuga, e lui ride, ha riso per tutto il tempo e dice ho conosciuto 200 km d'Italia, bei paesaggi, è stato fico, una giornata davanti, un po' come l'anno scorso quando la Fuga mi era riuscita. E oggi dice con i due Jumbo pensavo che saremmo andati più lontano, ma dietro erano 4-5 squadre a controllare e non c'era niente da fare. Poi forse non era la tappa giusta per me perché vado meglio in montagna, e quindi gli ho detto beh, non era la tappa giusta, eppure ci hai provato lo stesso. E lui dice molto semplicemente perché pensavo che saremmo stati di più in Fuga. Questa stessa cosa la diceva anche Edoardo Affini ad altri intervistatori prima di me, c'era attesa di una Fuga un po' più numerosa oggi, e niente, Champion dice pensavo fossimo di più e quindi perché no, saremmo potuti arrivare fino in fondo, che era lo scopo della giornata. Vi ricordate Thomas Champion l'anno scorso che ci cantò insieme al suo compagno de lettres? Sarà perché ti amo, no? Un personaggio molto simpatico che si è confermato anche oggi fuggitivo tradizionale degli ultimi giri d'Italia. Ma è arrivato il momento, in tema di personaggi simpatici che ci fanno imparare delle cose e che ci mettono di buon umore, tutti tranne uno di noi, di ascoltare anche oggi via satellite la parola del giorno in giapponese. Yoko Shokoto. Eccolo. La parola del giorno. 今日の一言. Gruppo. Proton. Team. Proton. Team. Dai con sti appunti, Pelacci, quante cose ti devi segnare? Te ne date due di parole perché ti comincia a venirti incontro il sensei. Ma sì, due dà anche due possibilità. Cioè posso confondermi di più, capito? Per cui è un po' difficile. Vuoi sceglierne una delle due? No dai, dille entrambe. C è la prima e Platon è la seconda. In realtà era prima Platon e poi C, ma comunque dai, se è andato bene ti sei perso un attimo nell'ordine. D'altronde mettere in ordine due parole non è una cosa che tutti riescono al primo colpo, ma comunque... Ma è il peloton, tipo peloton? Peloton, sì, è il peloton. È curioso perché questa credo che sia l'ennesima parola che il giapponese prende in prestito dall'inglese, che però ha preso in prestito dal francese, diventa quasi un po' la fiera dell'est, d'altronde il Giro d'Italia è un po' una fiera dell'est. Sì, è una fiera dell'est, è un bestiario, è una, sì, una mostra e tante cose diverse. Oggi non si è mostrato a noi in conferenza stampa la maglia rosa, che ha deciso, d'accordo con la sua squadra, di saltare la conferenza stampa dedicata ai giornalisti. Ha fatto la mix zone, ha fatto tutte le altre interviste, il protocollo solito, tranne l'intervista. Quindi non abbiamo la conferenza stampa, scusate, non abbiamo avuto modo di interagire con lui direttamente e di vederlo. Tuttavia, come sapete, la nostra conoscenza della maglia rosa procede non solo attraverso le sue dichiarazioni, ma anche attraverso le ricerche che Marta porta avanti giorno dopo giorno e che raccoglie e sintetizza nel suo Pogacciario. Di cosa parliamo oggi? Sono pronta, sono prontissima. Infatti, anche oggi sono andata alla fonte. Per non deludervi, visto che avevo subodorato attraverso la giromanzia che ci sarebbe stata questa assenza, quindi sono andata a parlare, come vi avevo accennato ieri, con Emanuele Mori, uno dei DS della squadra della UAE, e gli ho un pochino chiesto, poi sentirete anche dalla sua voce un racconto di come vede Taddei, ma gli ho chiesto anche come il team sta vivendo questo giro, quanto pesa lo stress che abbiamo capito essere di una certa influenza su Taddei, e lui mi ha detto che ovviamente avendo l'uomo di classifica la pressione c'è, che sono molte persone da gestire, sono oltre solo il team, sono oltre 35 persone, che però hanno anche modo di prendersi dei piccoli momenti di respiro. Infatti mi ha raccontato che quando sono nella tappa toscana, quando sono passati vicino, quindi anche da lui originario della zona, ha portato tutti i colleghi, per una mezz'ora sono scappati a vedere Campo dei Miracoli, così per prendere una boccata d'aria, diciamo. Però ecco dalla sua viva voce che cosa vuol dire per lui essere appunto la guida in questo caso di Taddei. Ma ti dà molte soddisfazioni, anche perché sinceramente è un corridore unico nel suo genere, nel ciclismo penso se ne vede pochi, la possibilità di che le qualità che hanno di vincere sia le gare di un giorno che le gira a tappe è un qualcosa di speciale, e per noi, sai, avere la possibilità di dirigere un campione così penso che tutti vorrebbero averlo, quindi abbiamo questa fortuna e speriamo di portarlo avanti per tanto con noi. Capelli oleosi? No. Capelli disgustosi? No. Capelli inguardabili anche per tua mamma? No. Il laboratoire della Cetix hanno messo a punto uno shampoo che lava veramente i capelli. Pulizia di pulito. Uno shampoo che nutre mentre lava. Profumo di profumo. Uno shampoo che ha la forma di shampoo perché è proprio uno shampoo. Bidono shampoo. Bidono shampoo. Con una nuova formula diversa dalla precedente. Una confezione ergonomica e un costo accessibile se lavori e hai tanti soldi messi da parte. Bellezza di gioia e gioia di bellezza. Bidono shampoo. Un prodotto irrinunciabile. Un prodotto deluxe. Cavolo, da quando lo uso mi sono laureato. Bidono shampoo. Se lo usi, ti lauri. 110 e lode. Ma come ti laurei? 110 e lode. 110 e lode. Uno shampoo. Basta lo shampoo. Sì, evidentemente. Che comunque ha una formula diversa dalla precedente. Sì. Questa è la grande novità di Bidono Shampoo. Non so, Pelacci, ieri sei andato dal parrucchiere. Ti vedo più laureato oggi. Per caso ti ha fatto usare Bidono Shampoo? Ma mi vedi più bello di gioia o gioioso di bello? Ti vedo bello di bellezza. e il treno è sempre il treno e passa in sottofondo e ci ricorda luoghi che abbiamo visto, luoghi che vedremo e luoghi dove non andremo mai. E i luoghi della tappa da cui è partita ed è arrivata la tappa di oggi, che è partita dal Fortore nel Beneventano. O Fortore. Forse ce lo spiegherà un diretto interessato, un locale, nell'audio che stiamo per ascoltare, che mette insieme appunto un contributo dalla sede di partenza e uno dalla sede di arrivo, da Francavilla al Mare, dove sono andato a mangiare un gelato buonissimo alla faccia vostra che non siete venuti, ma ci ascoltiamo i due contributi e dopo ne parliamo. Rocco Cirocco, nostro amico, fan, spacciatore d'olio, un sacco di ruoli uno dopo l'altro, ma soprattutto autore del libro Il Fortore a pedali. Sì. Il giro oggi parte dal Fortore, finalmente, anni che ci aspettavi al giro. Siete arrivati finalmente, sì, siete arrivati nel Fortore finalmente. Ho sbagliato l'accento, ho sempre detto Fortore, ho sbagliato sempre da sempre. Sbagliato. E non mai mai corretto. Sono sei anni che hai sbagliato. Anni che dico Fortore non mai corretto. C'è una cosa che volevo chiederti, io ho visto sui tuoi social a un certo punto dire la tappa passa dal mio albero, me la spieghi questa? Perché in quel tratto c'è l'albero particolare dove noi ciclisti del Fortore passiamo spesso, perché è una bella strada, una strada in salita e c'è quest'albero particolare che è in mezzo al niente ed è soprattutto in mezzo, è l'unico albero che non si trova in mezzo alle paleoliche. Quindi è isolato, sta là, beato, tranquillo e cambia colore in ogni momento. D'estate sta tutto verde, poi arriva l'autunno ed è bello, ogni volta che ci passo lo fotografo, è una mia fissa. Che albero è? Non lo so che albero è, perché lo vedo sempre dalla strada in lontananza. Non ti sei mai fermato all'ombra dell'albero? Mai, non ti puoi fermare perché devi andare nel prato, dove sta l'albero. Dalla strada si vede benissimo. Ha un soprannome? L'albero mio. Soprannome comune a tanti. Sì, è l'albero mio. È l'albero di tutti i ciclisti del Fortore. Sì, di tutti i ciclisti del Fortore. Va bene, te lo salutiamo allora. Grazie a voi. Grazie a te, Rocco. Allora, io sto camminando sul lungomare di Francavilla, forse in sottofondo sentite del vento, c'è vento, chissà se influenzerà la probabile volata qui di Francavilla al Mare, ma non è questa la mia preoccupazione principale in questo momento. La mia preoccupazione in questo momento è raggiungere il tennis bar dal professore che mi è stato indicato dal nostro lettore, ascoltatore Stefano Fontana, perché a quanto pare il gelato di questo bar è leggendario qui a Francavilla. Non è vicinissimo all'arrivo, quindi sto facendo una deviazione a piedi non da poco. Però insomma il dovere chiama, il gelato chiama e qualcuno dovrà pur sottoporsi a questa fatica. È un lavoro duro ma bisogna farlo, no? Vado. Allora, io mi trovo in una specie di paradiso per gli amanti del gelato e sono insieme a... Raffaella. Raffaella che è la fondatrice o... Sono la figlia del fondatore, diciamo così. In realtà l'attività è stata creata da mia nonna che vendeva latte e formaggi negli anni 50, poi è subentrata mia madre nel 1960 e in seguito mio padre, cioè il marito di mia mamma appunto, che hanno iniziato a fare il gelato nei primi anni 60 e io sono la terza generazione. Come si chiama questa gelateria, lo ricordi? Si chiama Tennis Bar Gelateria perché negli anni 50 mia nonna vendeva i frappè alle tenniste e negli anni 50 c'erano i mondiali, credo, non ricordo bene, di tennis femminile in alcuni campi da tennis che si trovavano a 200 metri dall'attività, che era piccolissima l'attività, un buchetto. E ripassavano il pomeriggio le tenniste dopo le gare e mia nonna faceva i frappè. Siccome si chiamava solo latteria, quelli del paese che stavano seduti lì fuori dicevano a mia nonna: signora Concetta, perché non lo chiamate tennis questo locale? E da lì è cominciato il bar tennis. E poi è diventato bar del professore? Il professore sì, si è trasformato in bar del professore pur mantenendo il nome di tennis bar gelateria perché mio padre... Lo chiamavano il professore, ma non perché fosse un professore, era un maestro elementare con qualche esame che gli mancava la laurea in giurisprudenza e era molto colto. E di conseguenza scambiava parole con professori, con clienti che venivano a mangiare il gelato, giudici, quelli, insomma, i clienti di un bar, soprattutto d'estate, e da lì il nome di professore, perché era molto colto. Ed è vero che la piazzetta antistante è stata intitolata a chi nello specifico? È stata intitolata a mio padre, il professore, perché mio padre purtroppo è venuto a mancare improvvisamente con un infarto, e ha lavorato fino al giorno prima e la notte è morto, e quando è morto hanno dovuto chiamare i vigili per il funerale, perché c'è stata veramente tanta gente, perché è stata una morte improvvisa. Decisero di dare il nome di piazzetta del professore a questa piazza di fronte a noi, che non ancora aveva il nome. Quindi questa è piazzetta del professore accanto al pontile Sirena e a Palazzo Sirena. Sì, e ci siamo noi di fronte. Perfetto, sì. Quindi c'è il cuore un po' della cultura, se vogliamo, di Francavilla, e quello del gusto. Sì, sì, sicuramente del gusto, perché noi facciamo il gelato da sempre. Qual è la specialità, la caratteristica di questo gelato che lo rende così amato? Innanzitutto è un gelato, è il vero gelato, perché contiene latte, panna, zucchero e neutro. Nessun tipo di preparato, nessun tipo di, tra virgolette, polverina. E usiamo degli ottimi semilavorati, della pasta di pistacchio pura di Sicilia, della nocciola Piemonte, il pistacchio al sale di Cervia, la liquirizia di Calabria, però non mancano anche gusti più golosi, tipo quelli variegati con la Nutella, con l'arachide, il caramello salato. Abbiamo diversi cioccolati fondenti, monorigine, Venezuela, Santo Domingo. E naturalmente adesso c'è la frutta fresca, quindi le fragole di Francavilla, i limoni per lo più locali, perché me li portano dai vari giardini. Io sono un amante del pistacchio, okay, questa è la premessa. Allora ti consiglio il pistacchio puro di Sicilia, okay. Oppure la pistacchiotta al sale di Cervia. Che pistacchiotta? È pistacchiotta, sì, l'abbiamo chiamata così, in altre gelaterie si può chiamare pistacchiosa o pistacchiotto. È un pistacchio, io in questo caso uso del pistacchio col sale di Cervia, e perché dentro c'è proprio il sale delle saline di Cervia, e variegato con una crema di pistacchio e del granellone di pistacchio sopra. Buonissimo. Invece questo parrozzo al gusto mandorla cos'è? Il parrozzo non l'abbiamo inventato noi, il parrozzo è un dolce tipico pescarese, addirittura dai tempi di Gabriele D'Annunzio, è lui che scrisse, che inventò il nome parrozzo, credo, non ricordo. Però è un dolce a base di mandorla con una copertura di cioccolato fondente, e noi lo usiamo nel nostro gelato alla mandorla. Buonissimo. C'è lo sgranocchione, sì, che è un altro gusto tipico nostro. Sgranocchione, sì, alla mandorla. È un gelato alla mandorla con dentro le mandorle pralinate. E poi la nostra specialità è il famoso capriccio, cioè il cono gelato fatto al momento, ricoperto di cioccolata, che quando lo mangi rimane... Si solidifica, rimane croccante il cioccolato, e all'interno c'è questo gelato fresco, morbido, che tu mangi. Te lo faccio assaggiare. Un bel cono con pistacchiotta al sale di Cervia e parrozzo ricoperto di cioccolato con la panna sopra. Anche la panna sopra. Ovvio. Io chiudo perché ho altro da fare adesso. Grazie, grazie, ciao. Buonissimo il pistacchio, pistacchiotta al sale. Buono. E allora confermo, davvero molto buono il gelato che ho assaporato al tennis bar di Francavilla al Mare. Ringrazio Raffaella. Michele, forse questa cosa ti fa piacere, lo sai chi è uno dei frequentatori, o era uno dei frequentatori abituali di questo bar, perché adesso vive negli Stati Uniti questo ragazzo? D'Annunzio? Non credo, no, che viva negli Stati Uniti. È nato a Pescara ma è vissuto, scusami, a Francavilla al Mare. Bella chiamata questa. Bella chiamata. Sto parlando di Simone Fontecchio, che tu conoscerai, giocatore di pallacanestro. Certo, il miglior giocatore di pallacanestro italiano in questo momento. È Raffaella, che mi ha offerto il gelato di cui abbiamo parlato, preparava le torte a Simone Fontecchio fino a quando lui ha compiuto 14 anni e si è trasferito a Bologna per giocare a basket a Bologna. Anche Giulio Ciccone frequenta questa gelateria. Ma e... c'erano i gelati al gusto Ciccone? Non c'erano i gelati al gusto Ciccone. Peccato. Comunque tu ti sei goduto il gelato, ma noi ci siamo goduti il buffet. Per cui secondo me è andata 1-1 e siamo stati talmente molesti nel lamentarci che non c'era alcol al buffet che adesso mentre smontavano sono venuti ad allungarci un camparino. Per cui ringraziamo anche i compagni del buffet e passiamo oltre. In realtà parliamo un attimo di ciclismo. Facciamo questa. Torniamo indietro. Il ghiottone si chiama il buffet. Bravo Pelacci che hai tenuto il biglietto da visita. Torniamo a stamattina. Abbiamo incontrato due corridori, entrambi coinvolti in modi diversi nella volata di oggi. Il primo l'ha disputata, Enrico Zanoncello della Bardiani, è arrivato decimo. E ascoltiamo la chiacchierata con Zanoncello. Senti, io ti cercavo perché l'altro giorno il tuo compagno di stanza, che si chiama Giulio Pellizzari, ha detto che lui è in stanza con il velocista più forte del mondo. Enrico Zanoncello, sei il velocista più forte del mondo, puoi confermarcelo? Per lui sì, per gli altri un po' meno, vediamo se lo diventeremo. Chi è il velocista più forte del mondo? Ah, in questo momento penso che sia Philips, è l'unico che manca qua, però con il lotto di velocisti che ci sono qua siamo a un buon livello. Il velocista più forte del giro? Ma secondo me è Milan, però Merlier è lì. Il velocista più forte di Isola della Scala? Anche lì è un problema. Intanto io sono di Vallese. Ah, ok. E anche Elia è di Vallese. Quindi ancora Elia. Com'è il tuo rapporto con Elia Viviani? Voi siete anche lontani cugini, no? Sì, siamo cugini di secondo grado. No, lo sento tutti i giorni, anche adesso al giro. Mi dà consigli e tutto. E ho un buon rapporto. Cosa rappresenta questo leone che hai tatuato sul braccio? Ma rappresenta tutte le volte che mi sono fatto male e che sono riuscito a tornare in bici e farcela. Ti senti un leone quindi in qualche sì, modo? Tantissimo. Senti, tu nel 2023 hai corso in Argentina, Spagna, Emirati Arabi, Croazia, Taiwan, Slovenia, Serbia, Bosnia, Grecia, Norvegia, Paesi Bassi, Cina, Francia, Belgio, Malesia. In Italia no? No, l'anno scorso abbiamo fatto un calendario molto, diciamo, per riacquistare fiducia in me stesso, per far volate più che altro, per tornare a vincere dopo aver fatto 2 anni brutti con 2 volte la frattura della clavicola, vari problemi alle ginocchia e qua e là. E l'anno scorso con la squadra abbiamo fatto un programma un po' di seconda fascia, diciamo, e quest'anno invece stiamo facendo il calendario quello di prima fascia. Senti, ma il tuo rapporto con la valigia com'è? Perché sei sempre con la valigia in mano. Sì, praticamente non sono mai a casa, quindi la valigia arrivo a casa, la metto là, lavo le cose e riparto. La PlayStation non la porti? No, a casa sono molto... gioco molto, però non essendo mai a casa gioco poco. A cosa giochi? A Fortnite. A Fortnite? Anche Van Der Poel gioca a Fortnite, l'hai mai sfidato? No, io gioco con Sonny, con Ganna, siamo un gruppetto che giochiamo online su Fortnite. E chi è il più forte di questi? Il più forte è il fratello di Elia, Attilio, che se la cava bene a Fortnite. Poi abbiamo degli altri amici che non corrono in bici, che sono molto più forti di noi. Senti, ultimissima, a proposito di gioco, tu riesci, ti vivi ancora il ciclismo e le volate come fossero un gioco, come fossero una partita di Fortnite? Bah sì, per me sì, non avendo un grande team che mi supporta nelle volate, sono abbastanza solo, quindi è un po' un terno al lotto ogni volata, è come fosse una battaglia reale, come su Fortnite, ogni volata. In quale posizione ti vediamo in questo giro, da velocista più forte del mondo? Spererei un podio, dai. Podio. Non al photo finish stavolta. No, va bene anche al photo finish, l'importante è arrivare davanti. Grazie mille, buona giornata. Grazie a te. Ciao. Pian piano va migliorando, Zanoncello sta facendo comunque delle buone volate e l'Abruzzo era anche un luogo particolare per lui perché facevamo la battuta finale era sul photo finish e il riferimento chiaramente è alla prima tappa del Giro d'Abruzzo che si è corso ad aprile e si finiva a Pescara, comune confinante con questo, come mi insegna Michele Pelacci, quando Zanoncello vinse la sua unica vittoria di questa stagione battendo Malucelli allo sprint con un photo finish che andatevelo a cercare per capire quanto è difficile il lavoro di uno che deve decretare il vincitore di una corsa. Dopo il velocista più forte del mondo, ovviamente abbiamo anche l'ospite straniero ma non troppo, perché almeno nel cognome c'è un po' d'Italia anche in lui. Era un sacco che volevo andarlo a conoscere, ho fatto una lunghissima attesa da vicino al pullman sotto il sole che mi è costata quasi la vita, e lui è Luke Lamperti, e andiamo subito a sentire che cosa ci ha raccontato. So, I'm here with Luke Lamperti, or should I call you Luciano? Yeah, also Luciano is my real name, but yeah, everybody knows me as Luke. The family a long time ago from Italy, quite a while now, but I have an Italian name, so yeah, it's special to be here in Italy. Your brother too, right? Is an Italian name. Yeah, Gianni. Also I have a brother 2 years older who's, yeah, quite an Italian name, so the whole family, all of our names are quite Italian. Your roots are kind of back then, but in which area? Yeah, it's quite a ways back, near Malpensa Airport. Lanate Pozzolo is kind of the area, but it's quite a ways back. A long time before me, but still Italian, yes. But do you go visiting the area sometimes, or do you like riding in Italy? Yeah, of course, I love it here. I think racing here is always really nice. You know, it's a good experience. The fans are always super good, we have good food when we're here, so we can't complain, I think, as riders. Lui appunto è Luke Lamperti della Quick Step, o come gli chiedo all'inizio, gli chiedo se dovrei per caso chiamarlo Luciano. Anche Luciano è il mio vero nome, ma tutti mi Luciano, anzi, ma tutti mi conoscono come Luke. La mia famiglia ha origini italiane lontane, ma ho un nome italiano, e quindi è speciale per me essere qui in Italia. Anche tuo fratello ha un nome italiano, vero? Sì, Gianni, è un fratello di tre anni più grande che ha un nome italiano, ma tutti i nostri nomi in famiglia sono piuttosto italiani. Le origini sono molto lontane nel tempo, però vicino all'area di Malpensa, nell'area di Lonate Pozzolo, che ha pronunciato in un modo delizioso. Sono molto prima di lui, ma sono sempre italiane. Gli avevo chiesto se visita quella zona ogni tanto, se gli piace correre in Italia. Certo, adoro essere qui, correre qui è sempre piacevole, è una bella esperienza, i fan sono sempre fantastici, il cibo è buono, non possiamo proprio lamentarci come corridori. Mi ha detto poi che gli piacerebbe visitare la sua zona di origine, ma non ci è mai stato, ci è stato solo molto vicino per andare in aeroporto. Speaking of Italy, you were here at the Giro Next Gen last year and you won a stage. And how's going the big Giro so far? Yeah, it's quite nice actually to do the baby Giro last year and then to come just the next year later and do the real Giro is really nice. But yeah, for sure it's a different level here at the real Giro, but I've really enjoyed my time. Gli ho poi chiesto, parlando d'Italia, se appunto, visto che è stato al Giro Next Gen e ha vinto una tappa l'anno scorso, gli ho chiesto come va il Giro Grande finora. Mi ha risposto che è piuttosto bello fare il baby Giro e venire a quello vero subito dopo. Certo, sicuramente il livello è diverso, ma me la sto godendo. Ricordiamo che da quando il Giro Under 23 è stato rinominato Giro Next Gen, dall'anno prossimo invece il giro principale si chiamerà Giro Previous Gen, da quanto ho capito. Si dice che Luke Lamperti sia una delle speranze americane per le classiche, e gli ho chiesto appunto, visto che c'è forse una relazione complicata tra gli americani e le grandi classiche, lui appunto che cosa ne pensa. Yeah, I think there's quite a relationship. It's been a long time since there's been an American classics rider or sprinter, but I think now you see the level of Americans is really high all over, whether it's climbing, time trials, everything. So I think it's possible for sure that the level goes up for everybody. And now we have a really strong group of Americans in the World Tour, so hopefully I can be part of that in the classics. And we know a bit of your characteristics, but which kind of riders are you going to be and you want to be? And have you got any, I mean, inspirations and riders that you really like? Yeah, I think it's hard to say exactly what I'll be. I don't think I'll be a pure sprinter. I would like to try to do the classics for the next few years and see, but also maybe some sprinting and also doing the lead out here for Tim. So right now I do a little bit of everything and see what I'm good at, but I think one rider that always really really inspired me was Sagan. A rider like this, I think, is what you have to be now also to be a sprinter. You see how hard the days here are in Giro. There's not many pure sprints anymore. As Sagan, you also like mountain biking, right? Yes, I really like the mountain bike. I raced motocross when I was younger, so I really enjoy training on the mountain bike still. I don't race it often, but I still enjoy training, yes. mi ha risposto che sì, è un bel po' che non c'è un corridore americano da classiche o un velocista, ma ora si vede che il livello degli americani è molto alto ovunque, sia negli scalatori che a crono, quindi pensa che il livello possa salire ovunque e ora che c'è questo appunto questa livello molto alto di americani nel World Tour, spera di poter essere parte di questa crescita anche per le classiche. Gli ho poi chiesto, viste le sue caratteristiche che un po' conosciamo, che tipo di corridore vorrebbe diventare, se c'è qualcuno che lo ispira o che gli piaccia molto. Luke dice che è difficile dire esattamente cosa sarò, non credo sarò un velocista puro, cercherò di fare le classiche nei prossimi anni e vedremo. Magari anche un po' di volate, di lead out per la squadra, ma un corridore che mi ha sempre ispirato è Sagan. Non ci sono più tanti velocisti puri. Gli ho poi chiesto, visto che appunto di Sagan, sapevo che ama anche andare in mountain bike. Ha iniziato facendo motocross da ragazzino, gli piace ancora molto allenarsi sulla mountain bike, ma non gareggia più. Yeah, when I'm home in the US I like to go on the boat and spend time with family. I'm not there so often, so I like to really enjoy my time there when I am home versus when I'm in Europe. Normally I'm pretty busy racing all the time, not a lot of days in Girona, most days on the road. Do you like something like music, and do you have time to, I don't know, watch movies and... Yeah, I like to listen to music, but I'm not very good at playing music. But for sure, I like to listen to music, and I'm not a massive movie guy. I don't always watch a lot of movies, but I spend a lot of time outdoors. And if you have to, give me an advice, like something music, a band that I should listen to. Well, something that you like. Yeah, I don't know. It's. A band that would be something good, something American, I don't know, it's hard to say. There's a lot of good musicians from the US, but I think now we see a big rise in country music in the US is quite big now. Perfect. Thank you for your time, Luke. Ciao, thank you. Ciao. Abbiamo poi parlato dei suoi hobby, gli ho chiesto che cosa gli piace fare nel suo tempo libero. Sì, quando è a casa negli Stati Uniti gli piace molto passare del tempo in barca con la sua famiglia, visto che non c'è così spesso, si gode il tempo lì. Invece quando è in Europa, che è sempre impegnato a correre, la maggior parte dei giorni non li trascorre appunto a Girona, ma in strada, quindi in viaggio. Non ha tempo molto di ascoltare musica, film, ascolta musica, ma non è mai stato bravo a suonare. Non è troppo un tipo da film, ma passa molto tempo all'aria aperta. Gli abbiamo chiesto un consiglio su una band e naturalmente avrebbe voluto consigliarci qualcosa di americano, ci sono un sacco di bravi musicisti americani, ma soprattutto ci ha segnalato la grande crescita nel country. Ci siamo poi salutati e lui ci ha suggerito, sempre su nostra richiesta, di andare a chiacchierare con Magnus Sheffield, visto che sono cresciuti correndo insieme e lo ritiene molto molto in gamba. Ebbene, bene, allora abbiamo chiacchierato con un americano, suggerito di parlare con un altro americano, chissà se seguono l'NBA, se seguono i Detroit Pistons di Simone Fontecchio, ma sempre per rimanere in tema di collegamenti, vedi come ti sto lanciando la tua presentazione Michele, abbiamo parlato con due corridori protagonisti in modo diverso delle volate, un velocista e un gregario di un velocista, Lamperti gregario di Merlier. Domani c'è una volata o c'è qualcos'altro in programma? Il lancio della tappa di domani, Pozzo di Scienza Parmense, perché il nostro Pozzo di Scienza Domenico Pozzo Vivo è impegnato, come avete forse visto in televisione, in questi giorni nella lotta per i suoi obiettivi classifica, tappe, vedremo. A te. Domani per nulla volata, perché è molto attesa la combinazione Marche più Muri, che spesso porta benissimo. Il più duro è quello di Ostra, ma è a circa 58 km dal traguardo, con punte quasi al 20%. Vale la pena citare tutti i nomi di questi muretti, perché sono molto belli, così magari vi appostate su uno di questi domani. Monte Corsaro, Monte Lupone, Recanati, Castelfidardo, Osimo, Villa San Paterniano, Monsano, Ostra, La Croce, Mondolfo, Monte Giove. Quest'ultimo è di 1200 metri al 9%, termina ai meno 13 di una tappa lunga ben 194 km. Finalmente possiamo dire che domani è, rullo di tamburi, una piccola Liegi. Posso fare il mio pronostico subito? Ma perdonami, Liegi o Fiandre coi muri? non sono, diciamo, in ciottolato, in autobloccanti, non sono in pavè, quindi io direi piccola Liegi. Potrebbe essere una piccola freccia del Brabante. Buona chiamata. Una freccetta del Brabante. Va bene, per me, siccome sarebbe anche ora che un italiano vincesse la prima corsa World Tour, che non si chiami Jonathan Milan, quest'anno, vince o Matteo Trentin o Andrea Bagioli. Ah, doppia scelta, però allora faccio anch'io una doppia scelta. No, dico che facendo questo paragone con la piccola freccia del Brabante, e visto che l'abbiamo appena nominato, potrebbe essere Magnus Sheffield un nome per domani. Ma in realtà io il mio pronostico me l'ero preparato in conferenza stampa, perché ho sentito Jonathan Milan molto attento a parlare della tappa di domani, dicendo anche, ha usato questa bella definizione, ci sono svariati chilometri ondulati nel finale di tappa. Quindi io penso che domani invece si arriva in volata, non si arriva con una volata di gruppo compatto, ma si arriva con una volata ristretta, e quindi scelgo il nono classificato di oggi, classifica corretta dopo le squalifiche, la squalifica, anzi il declassamento, corridore che ignoro chi sia, ma domani vince Stanislav Anielkowski della Cofidis. Per me invece domani è un Danish Affair e potrebbero essere Honoré o Valgren. Entrambi ottimi nomi, a me viene in mente invece un belga, anzi due, stiamo dicendo due nomi tutti quanti, e quindi Mauri Van Sevenant o Jasper Stuyven sarebbe ideale se stesse bene, se stesse al massimo della forma, insomma. Ci avviamo alla conclusione, vi lascio con una buona notizia, spero che sia buona per voi, perché ho saputo che domani esce il terzo singolo dell'album di Luca Pedalini. Dopo Tutti vogliono un bincio e La vita di Michele arriva questo terzo singolo, che a quanto pare sarà dedicato a un altro componente della nostra squadra. Non ho altri dettagli, attendiamo anche noi l'uscita del terzo singolo di questo cantautore che propone una visione del ciclismo abbastanza particolare. Sì, potremmo definirla una visione sbagliata del ciclismo. No, non lo so se è sbagliata. Comunque vedremo se troveremo il tempo di ascoltarlo domani o nei prossimi giorni, il nuovo singolo attesissimo di Luca Pedalini, che so che si esibirà anche a diversi festival tipo Radio Norba Battiti Live, non so, uno di questi qui con questi nomi, Cornetto Algida Strumentazioni Live, uno di queste cose con questi nomi tirati con parole estratte a caso da una busta. Nel frattempo noi salutiamo i nostri ascoltatori, li rimandiamo come sempre alla pletora di canali online su cui ci possono raggiungere. Ci sono tanti social, Twitter o ex Twitter, Telegram, Instagram, anche Facebook ancora qualche volta lo andiamo a ripescare, se volete, con bidon o al vento o che altro, basta, o bidon o al vento, Shimano se vi va. Noi vi diamo appuntamento a domani, saremo a Fano e a presto, che altro dire? Ho capito, vado a mettermi al volante, andiamo.